ben arrivate, se volete dire ciao. Professoressa, ciao, ciao, grazie, grazie per questo invito. Sì, no, infatti, grazie a voi che siete venuti. Professoressa Ilaria, professoressa di? Allora, didattica per il museo, okay. Didattica dei linguaggi artistici e tecniche e tecnologie per le arti visive 2 nel Dipartimento di Didattica e Comunicazione dell'Arte. Wow. Cioè, nel senso che io non so quanti dei nostri ascoltatori sanno che esiste un Dipartimento di Didattica dell'Arte all'interno dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. Diciamolo a tutti, perché quest'anno ha fatto faville il Dipartimento di Didattica dell'Arte. Okay. Ilaria poi ci racconterà. Infatti. E che cosa siamo venuti a parlare qua stasera? Cristina, forse ci vuoi dire tu da che cosa arrivi, anche annunciare quali sono stati l'ultima settimana, gli ultimi giorni più vivi e cosa ci sarà stasera a chiudere il grande evento. Esatto, oggi finisce proprio oggi, quindi no, ottimo essere qui proprio questa sera, perché oggi finisce questo evento promosso dall'Accademia di Belle Arti che si chiama Open Tour, e questa sera, così invito tutti gli ascoltatori, ci saranno la presentazione di questi corti fatti dagli studenti di linguaggi del cinema e dell'audiovisivo al cinema Galiera alle 9:30. Così Giacomo, intanto Matteotti faccio 27. Ecco, perfetto, grazie. Ce l'ho davanti. Intanto ho fatto pubblicità. Allora, questo evento promosso dall'Accademia, che è nato diversi anni fa, nel 2015, però questo il format non l'abbiamo potuto mantenere per 2 anni a causa della pandemia. Invece quest'anno siamo ripartiti alla grande, devo dire, con appunto il format che prevede nella sua centralità, diciamo, come fulcro centrale, proprio questa mostra diffusa. Quindi prevede che l'Accademia esce dalle sue mura e tutte le studenti e le studentesse invadono la città occupando quasi tutti gli spazi tantissime gallerie commerciali che, fra l'altro, in maniera molto generosa, diciamo, lasciano spazio a questi giovani pressoché sconosciuti. No? Esatto, infatti abbiamo anche avuto, devo dire che è fondamentale, la collaborazione proprio con l'Associazione delle Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea, ASCOM, no? Mm-hmm, di Bologna, certo. Che hanno veramente risposto in modo, come dire, super positivo alla nostra proposta, ma non ci sono state solo quelle, ma anche tanti altri spazi, no? Che sono tipo anche fondazioni, spazi no profit, tutti hanno appunto accolto gli studenti. Immaginate che avevamo circa, cioè, e tuttora alcune sono ancora aperte, le mostre continuano, certo. Però per tutto il periodo di Open Tour c'erano 29 spazi coinvolti. Wow. Ecco. 29 sono tanti. 29 mostre. Sì, sì. Sia 29 mostre per i fruitori, sia 29 gallerie, spazi, sì, fondazioni che hanno prestato gli spazi, sia 29 e sicuramente di più artisti che si sono messi in gioco in una di quelle che, insomma, è un po' una delle forse prime o quasi prime esperienze professionali fuori l'Accademia, giusto? Sì, in effetti, tra l'altro, calcolato che più o meno sono oltre 400 gli studenti coinvolti, diciamo, che hanno partecipato. Per cui quasi un terzo di tutti gli studenti dell'Accademia, esatto. Che non è una brutta percentuale. Non è una, sì, più o meno abbiamo 2000 studenti. Quindi, questo è una cosa, una risposta già super, sì, super bella, sì. No? No, infatti. E devo dire che però anche oltre gli studenti ci sono state proprio la collaborazione dei professori, certo, dei docenti, dei professori, professoresse, chiaro, studenti e studentesse, chiaro, perché è importante, no, le cose giuste, e quindi che hanno, insomma, anche i professori che hanno collaborato curando, e i docenti appunto curando alcune di queste mostre. Quindi poi c'erano anche 2 curatori di tutto l'evento, sì, di Open Tour, che sono Carmen Lorenzetti e Giuseppe Lufrano, e quindi che si sono, insomma, hanno tenuto insieme, coordinato tutto l'evento. Dicevo, ecco, mi dicevi che mia è questa cosa, è importante perché oltre a essere una grande festa dell'arte ha un valore aggiunto, secondo me, molto significativo, che è quello proprio di essere un'occasione formativa, certo, per gli studenti, e quindi anche la possibilità, perché poi la possibilità è, quindi coloro che hanno dato la possibilità agli studenti di farsi vedere, di poter allestire le loro opere, no? È già veramente un grande passo verso proprio la carriera artistica, certo, no? E quindi sì, anche, certo, il confronto sul, non lo so, anche su, anche sulla dinamica del mercato. Cosa, certo, vuol dire? Per esempio, io quando andavo, perché giovedì, che era il giorno dell'inaugurazione, io ho fatto tutte le 29 gallerie, ho cominciato insieme alle mie colleghe alle 3 e abbiamo terminato il giro a mezzanotte. Io confermo, perché ho partecipato a una piccola, esatto, parte, e vorrei dire a chi ascoltasse che se l'anno prossimo ci vogliono dare uno sponsor di una bicicletta elettrica, ben venga, no? Nel senso, sì, sarebbe fantastico fare open tour, bike tour sponsorizzata, perché è una figata l'esperienza di farsela in, esatto, bici. Questo ci avevo pensato, però quest'anno non ce l'ho fatta, ma quest'altro anno devo dire che questa è un'ottima idea, trovare qualcuno che ci metta a disposizione delle molto biciclette. Meglio di una maratona, voglio dire, certo, l'arte maratona, maratonarte, insomma, una cosa carinissima. Detto questo, Marco Roma ha lasciato il suo messaggio vocale anche oggi. Ascoltiamolo per cui subito. Non possiamo farne a meno, scusate, ma allora eccolo qua, sentiamo cosa ci racconta oggi. Buongiorno. È incredibile che le palme sono così alte. Tu le guardi da giù e vedi le foglie cadere fino a giù, e a volte cerchi di contarle ma non ci riesci, e immagini il loro vero posto abituale. Da Marco Roma. Buongiorno. E buongiorno a te, Marco. Stefano, Marco sta diventando sempre più strutturato. Ma infatti, cioè come gli viene in mente di contare le foglie delle palme, lo sa solo lui. Comunque, complimenti al dovete sapere che Marco Roma è il nostro grande fans, grande gruppi di Coxo Spaziale. E non solo, perché manda ogni 2 o 3 giorni sempre una canzoncina a Radio Città Fujiko dedicata. E noi insomma, l'abbiamo preso sotto abbiamo adottato. Sì, è fatto d'amore. Infatti. È sempre innamorato. Ed è sempre cantante. Sempre felice. Aggiunge un'anima positiva. Infatti, che comunque ce n'è bisogno. Anche per distrugge la radio. Distrugge ogni tentativo di serietà in questa trasmissione. Perché comunque, quando arriva Marco Roma, io lo invito pubblicamente a venire alla cena di Radio Città Fujiko. Sì, giovedì, così può cantare dal vivo a tutti noi. Sarebbe fantastico. Detto questo, se qualcun altro vuole lasciare un messaggio vocale, 333 180 94 94, con WhatsApp potete farlo, e non è detto che lo metteremo. Lo metteremo, però. Però voi intanto potete, mandate un po' tu, oppure anche messaggi normali lì leggiamo. Esatto. Stavamo parlando cioè, stavamo dicendo prima di Marco che il prossimo pezzo faccelo su una bicicletta, per piacere. Okay. Se ci stai ascoltando. Mm-hmm. Della bellissima biciclettata dei 29 spazi, e che la direttrice dell'Accademia di Belle Arti, che è qua con noi, Cristina Francucci, che ci sta raccontando di Open Tour, insomma, dicevi che ci avete messo comunque dalle 3 a mezzanotte, ci avete messo un bel po' a visitare tutti gli spazi. Sì, e tra l'altro vorrei anche suggerire con tutti, insomma. Infatti vorrei suggerire, perché io usavo le biciclette, quelle del comune, che devo dire che sono fantastiche. Sì. Però la carica non permetteva di vedere tutta Open Tour. Ah, ok. Quindi bisognerebbe trovare una soluzione, perché sì, non so, uno potesse ricaricarle in qualche modo. Io non so come funzionano queste biciclette. Quelle vengono ricaricate, no, arriva il tipo che cambia la batteria. No, cioè, praticamente c'è un messaggiatore all'organizzazione centrale che sa che quando la batteria è scarica arriva il tipo col camioncino, certo, e cambia le batterie. Insomma, allora per quest'altro anno eventualmente il comune almeno, sì, deve mettere delle cariche, sì, che siano superiori, perché avevo una carica di 45 per 45 chilometri e non è bastata. Certo. No. Attrezzarsi l'anno prossimo. Io approfitto per salutare Massimo Marchetti, che non si ricorda che alle 7 c'è Coxo Spaziale e dunque tenta di telefonare. ringraziarmi. Davvero, grazie, sì. Grande Massimo. Per fortuna avevamo messo silenzioso. Infatti. No, dicevamo bene. Proprio, stavo dicendo proprio che andando nelle gallerie, per esempio, mi è venuto da chiedere agli studenti se avevano, e le studentesse, se avevano dato un valore alla loro opera, no? Perché, ah, certo. E quindi un economico. Certo. E in realtà anche i galleristi hanno detto, gli abbiamo detto che dovevano arrivare. E anche questo, certo, per dire è una cosa importantissima, certo, perché no, è fondamentale saper dare, no, un valore a quello che produci, che fino a quel momento, no, è qualcosa che tu non pensi, no, sì, possa essere poi, no, certo, portato via da te. Esatto. Sì, no, infatti poi è anche abbastanza tipico essere molto legati al proprio lavoro, esatto, a quell'età, perché cioè è la certo, loro vita, per cui certo, è la loro scelta di vita, e dunque le loro opere sono, però appena tu il tuo lavoro ha un valore economico, diventa proprio subito una professione, certo, no? Esatto. Cioè, passa subito dalla parte, e quindi già è una visione diversa. Vedi, quando dicono che le accademie o le università non sono diciamo in collaborazione con la formazione al lavoro, questo è un evento che per esempio potrebbe essere riportato, adesso faccio veramente una metafora così utopica forse o idealista, anche nelle altre istituzioni universitarie che preparano gli studenti allo studio, ma non tanto, o vedono la loro partecipazione come attori nel mondo del lavoro in fase di tirocinio, ma non come questa finestra, come se fosse un varco temporale di qualche giorno, qualche ora, in cui per un momento l'università finisce, non ci sono voti, non ci sono veri rischi di vendita o di non vendita, e c'è un momento in cui città, studenti, professori, galleristi e fruitori facciamo tutti parte di una sorta di carnevale senza ruoli, senza gerarchie, ma e senza tempo, diciamo, troppo lineare, ma si partecipa veramente a un grande dialogo, no? E a me interessa moltissimo chiedere a Ilaria, che sperava di non intervenire, e ma invece ha una voce bellissima ed è bravissima, quindi benvenga, e di chiedere un po' riguardo a un progetto particolare di questo Open Tour, che è avvenuto con Open Tour, che si chiama Riparazioni. E se vogliamo partire un po' dal nome, Cristina o Ilaria, chi vuole dirlo, e poi anche a descrivere come questo progetto penetra in maniera un pochino più continuativa in relazione alla città, di modo da non lasciare che questo evento bellissimo si concluda e finisca, ma possa continuare in altre occasioni, in altre sedi, in altri eventi. Vado io. Va bene. Allora, diciamo, intanto Riparazioni si intreccia con Open Tour, è un progetto parallelo che però abbiamo deciso di lanciare in occasione di Open Tour per iniziare a dare al progetto la giusta visibilità. È un progetto che fa parte della grande strategia legata ai fondi PON, è coordinato dal Comune di Bologna e vede l'Accademia di Belle Arti come protagonista principale. Il titolo ovviamente non è casuale, Riparazioni, sottotitolo Rielaborare ad arte, è stato scelto da una parte per ribadire quello che magari si dice ancora, forse ancora troppo poco, ovvero la capacità che hanno i linguaggi e le pratiche artistiche, sia per chi le fa, sia per chi le fruisce, di ricucire dei legami, sia personali che sociali. Sappiamo che l'arte regala, le arti, anzi sarebbe più opportuno dire, regalano la possibilità di raccontarsi e raccontare la società con tantissimi alfabeti espressivi. Allora, laddove magari le parole non bastano, arriva la pratica artistica, per chi è un artista, arriva la fruizione artistica, che è essa stessa un gesto culturale per i fruitori e che diventa, e le fruitrici, e che diventa partecipazione. Attenzione alla porta. Ecco, così il bello della diretta. e quindi diciamo che Riparazioni avrà effettivamente, è iniziato adesso con due appuntamenti che hanno avuto un grandissimo successo, insomma siamo anche molto orgogliose, adesso guardo Cristina, perché sono state settimane molto intense, ma avrà una durata molto lunga, proprio perché si pensa ad un impatto sul medio lungo termine, quindi arriviamo all'incirca dicembre 2023. 2023. Questo significa che questo periodo vedrà l'Accademia, adesso io in questo caso rappresento i docenti, diciamo così, e le docenti impegnati nella progettazione di tutta una serie di eventi di varia natura, ci stiamo ancora lavorando, con l'obiettivo proprio di far uscire ancora una volta l'Accademia sul territorio, ma utilizzando quello che poi dicevi anche tu prima, no? La specificità dell'Accademia è questo bellissimo connubio tra teoria e pratica, dove una si riversa nell'altra e viceversa, e questa capacità di unire queste due facce in maniera proficua, non produttiva, ma proprio proficua, vorremmo renderlo un patrimonio condivisibile da tutti i cittadini e le cittadine. Ovviamente per ora il luogo privilegiato delle azioni sarà Piazzetta Raviola, che è una porzione di quella che è più nota come Piazza Puntoni. È un luogo significativo per varie ragioni. La prima ragione è perché è un luogo contraddistinto da una serie di problematicità, anche da un punto di vista. È di fronte all'Accademia, giusto? È di fronte all'Accademia, infatti questo era il secondo punto. Okay, è di fronte all'Accademia, ma ci leggiamo nel pensiero con Mia, visto che ci conosciamo da tempo, tra l'Accademia e la Pinacoteca. E anche questo è interessante a livello simbolico, perché si in qualche modo riuniscono e collaborano due istituzioni, una l'Accademia deputata alla formazione, alla produzione di arte contemporanea, e l'altra la Pinacoteca, che abbiamo in qualche modo coinvolto a livello di collaborazione, che è comunque un'istituzione museale statale con un patrimonio di arte antica che tutela, conserva ma anche valorizza, e che diventerà anche il pretesto per delle azioni educative rivolte al pubblico tutto. Certo. in varie modalità. Mi fermo perché ho già detto molte cose, non so se Cristina vuole aggiungere. No. Perfetto. Poi Ilaria è stata una mia studentessa. Quindi assolutamente, ed è la classica situazione in cui l'allieva supera la maestra. E quindi ben venga, anzi io l'ascolto molto volentieri. Super. Thought that I'd be traveling, I thought I'd see my friends. The universe had other plans to keep me in my pen. Solitude is bliss, they say, not every hour, every day. The cars don't drive around no more. The boats rust in and kill the port. So we'll put our plans on hold as the world turns dark and cold. As winter turns to spring, our twenties will be pending. I'll wait like a bird on a broken branch I'll perch, just singing about this broken world. Da da da. Busy as we were, the universe tells me to lean in as I talk to her. She says we were running around like headless chickens on the ground. Now it's time to smell the rose, the one we planted years ago. So we'll put our plans on hold as the world turns dark and cold. As winter turns to spring, our twenties will be pending. I'll wait like a bird on a broken branch I'll perch, just singing about this broken world. Feeling hopeless right now, but this too shall pass, or the sun will come. E poi invece siamo arrivati, siamo tornati in diretta, per cui potete continuare a parlare, classico, ma sappiate classico. Che io adoro questi tutti. Dietro le quinte, esatto. In cui non ho mai detto ancora niente di sconveniente, ma sappi che succederà la volta prima o poi. Che non sarebbe la prima volta, cioè, esatto. Sappi che, figuriamoci, ci sono stati dei coxo spaziali abbastanza deliranti in passato, per cui non ti preoccupare, stiamo andando benissimo. Grande. E stavamo facendo il punto sulle cose certo. Fondamentali da dire, perché questo ci sono programma un sacco è ricchissimo di cose. Esatto. E forse partiamo nel dire un appuntamento che poi ripeteremo durante le menzioni, ma che lo cominciamo a dire già adesso, del 1° e del 3 luglio. Esatto, In and Out, prove di stampa dalle 16 alle 20. Esatto. Adesso continui tu. Certo. Sì, continuo io. Siete... è lei che tra l'altro le cura. Queste... Infatti. Non sono da sola, sono insieme ad altri docenti, in particolare la professoressa Cristova del corso di grafica d'arte, e poi ospiteremo Alessandro Sanna, che è un illustratore magnifico e delicatissimo al tempo stesso. Si tratta di due appuntamenti che riguardano sempre Piazzetta Raviola, sempre in modalità workshop, possiamo dire, dalle 16 alle 20, aperti a tutto il pubblico. C'è un di più però per il pubblico delle famiglie. Offriamo delle visite guidate all'interno della Pinacoteca. Entrambi gli appuntamenti hanno un tema. L'1 luglio il tema è floreale e vegetale, e quindi faremo per le famiglie che vorranno, anche per gli adulti però curiosi, le studentesse e gli studenti del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte hanno strutturato delle mediazioni in Pinacoteca e vedremo dei capolavori a tema floreale con nomi come Donato Creti, per esempio Tintoretto. L'idea è poi quella di uscire in piazza, dove troveremo dei tavoli a forma di tavolozza che sono stati poi progettati per un workshop di cui vi parlerà a breve la direttrice, che diventano una postazione di lavoro. Lì il pubblico troverà ad attenderlo gli studenti del corso di grafica d'arte, e sarà coinvolto in una serie di operazioni di stampa a monotipo, stampa diretta e indiretta, sempre a tema floreale vegetale, con una tecnica molto di semplice utilizzo, molto intuitiva anche per i non addetti ai lavori, e che quindi lascia spazio a tantissime sperimentazioni. I ragazzi di grafica d'arte sono lì proprio per consigliare, siete invitati anche voi per ovviamente, ed è un lavoro anche un po' work in progress, dove si sperimenta poi quello che di fatto si è visto insieme al museo. Per quello che riguarda invece domenica 3 luglio, il tema è lo spazio e il paesaggio, con particolare riferimento all'arte di epoca medievale, quindi il protagonista indiscusso sarà Vitale da Bologna. Cominceremo con San Giorgio il Drago e proseguiremo per ragionare e vedere insieme come nell'arte medievale tutto il mondo venisse contenuto in un piccolo spazio preziosissimo, con delle regole sue interne tutt'altro che casuali, come purtroppo spesso si crede, e con una preziosità che deve ribadire un elemento fondamentale, ovvero la meraviglia della realtà, e anche eventualmente, ma questo era per tipico molto della società, di una parte della società medievale, un certo grado di spiritualità. L'idea di questo mondo in miniatura, che poi viene ripreso anche dalle miniature che sono presenti in tanti manoscritti, sarà proprio il punto di partenza per il workshop condotto da Alessandro Sanna, che coinvolgerà le famiglie ma il pubblico tutto nella realizzazione di preziosissimi e delicatissimi paesaggi in miniatura. Useremo l'acquerello in quel caso. Fantastico. E tutto è gratuito? Certo. Tutto gratuito. Bisogna prenotarsi a qualche indirizzo? Sì, allora bisogna prenotarsi all'indirizzo dei servizi educativi dell'Accademia, che è servizi educativi, tutto attaccato, @ababo.it. E per consultare eventualmente il programma di riparazioni, vogliamo buttare giù un link a un sito? Allora, è il sito dell'Accademia di Belle Arti, aspettate, non è www.ababo.it. Ecco, grazie. Esatto. Dopodiché naturalmente su coxospaziale.blogspot.com ci saranno i link diretti a entrambi. Ci tenevo a dire che cioè chi non vuole partecipare alle visite guidate può comunque fare i laboratori e workshop davanti sempre. Questi due workshop. Dico, abbiamo costruito questi tavoli apposta quindi che saranno appunto sono stati messi nella piazzetta. I tavoli tavolozza. Sì, tavoli tavolozza. Esatto. Stupendo. E questi due appuntamenti sono il terzo e il quarto, giusto? Sì. Sono, perché sì. I primi due sono appena stati fatti e sono il workshop della pasta con l'artista Sissi. Esatto, c'è stato queste due esperienze devo dire estremamente belle, perché in realtà proprio il termine, prima dicevi Mia, no, di riparazioni, che cosa venuto, arriva? Ecco, deriva da questa tecnica del kintsugi, che è una tecnica giapponese, che è quella che quando che utilizzano quando si rompe una porcellana, un suppellettile, insomma, per ricucirla e riunirla attraverso una resina però d'oro, che ha proprio il significato di rendere visibile questa frattura, certo. No? E nel non senso e non nasconderla, e proprio riparazioni vuole essere questo, cioè vuole rendere responsabili o far prendere coscienza alle persone, no, delle problematiche sociali, quindi per ripartire da quelle, cioè senza negarle, no, perché bisogna partire sempre da qualcosa che esiste già, no, certo. Per modificarlo, infatti dopo il termine dopo è di riparazioni, rielaborare ad arte. Certo. E quindi queste sono queste azioni che vogliono proprio, come dire, riparare le fratture sociali, pensando che l'arte può avere questa potenzialità, no? Certo, e riparare senza nascondere o senza diciamo giudicare il danno come una cosa negativa, esatto. Ma impreziosire quello che è, che è la storia, che è la storia, modo, esattamente, no? Vi interrompo perché ci sono le pubblicità delle 19:30. Okay. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Hai mai sentito parlare di... Ed eccoci qua, ritornati. Siamo ritornati. E vogliamo dire i due appuntamenti appena avvenuti e anche un pochino un premio, perché non si è ancora mai cominciato a parlare di premi, di premiazioni. Vogliamo dire qualcosa? Sì, allora... Con cosa incominciamo? Allora, finiamo con riparazioni, esatto. E poi riprendiamo Open Tour. Perfetto. Allora, riparazioni, sono stati già due appuntamenti importanti, che sono stati uno venerdì e uno appunto domenica. Due azioni, ecco, che fanno capire bene qual è, no, l'intendimento di riparazioni, perché uno è stato un workshop di pasta proprio fatta a mano, e l'idea era proprio quella, realizzata e coordinata da due artisti importanti come Sissi e Christian Ostad, che hanno praticamente ideato insieme con la collaborazione degli studenti delle nuove, come dire, forme, no, di impasti e di che però, o delle forme, delle sculture che però assolutamente commestibili, no? Ma dopo ve le siete mangiate? Io sì, fantastico. A me la sono mangiata assolutamente, anche non sono bravissima, ho scoperto a fare la pasta, anzi c'era una persona semplice vicino a me che la faceva meglio di me e me la voleva poi vendere, cioè. Comunque è stato un evento assolutamente, quello che si dice, inclusivo, cioè quello che volevamo, no? Certo. Perché anche gli abitanti, come dire, un po' così, come li possiamo definire, un po' scapestrati, come li chiamiamo, Ilaria? Scapigliati. Si sono fatti arrivati, coinvolgere. Hanno partecipato. E quindi hanno partecipato, hanno fatto la pasta anche loro e se la sono andata anche a cuocere, credo. Sì, sì. Ma perché non avevate a disposizione anche una pentola? No, quello okay. Sarebbe stato impossibile. Ok, se la sono andata a cuocere. Non ce l'avrebbero dato mai il permesso, no, infatti, di fare una cosa così. Però avevamo questi bellissimi tavoli che sono stati anche questi realizzati, ideati dagli artisti, però realizzati dagli studenti di scenografia, perché certo. È delle studentesse di scenografia, e che erano delle grandi tavolozze con anche la parte, no, dove si mette il pollice, solitamente certo. Molto grande, e lì dentro c'era Christian Ostald che invece impastava e così, e quindi è stata veramente bellissimo, tantissima gente, anche i bambini, quindi abbiamo foto, immagini, proprio di un evento veramente così come molto di godimento collettivo. Poi domenica, cioè ieri, ieri invece c'era questa idea che abbiamo avuto, dal titolo, questa proposta, il titolo Regala l'arte. Cioè praticamente avevo trovato quando sono arrivata come direttrice dell'Accademia, ho trovato per caso una stanza in cui erano depositati tantissimi libri che erano stati prodotti dall'Accademia e non erano stati distribuiti. Certo. E quindi l'idea è stata un po' quella: cosa facciamo con questi libri? Ho coinvolto la consulta degli studenti, che devo dire sono stati bravissimi, che abbiamo pensato di regalarli. Mm-hmm. E allora abbiamo detto: beh, vabbè, è anche la fine dell'anno accademico, facciamo, regaliamo i libri e facciamo una festa. Infatti un po' così è stato. Ieri c'era la musica acustica, perché non ci hanno permesso di avere l'altra. E poi avevamo dei gelati che abbiamo fatto, però di qualità, del gelatauro, non so se si può dire, gelatauro. Se poi vogliono anche pubblicità Radio Città Fenice, non è perché sono studenti, capito, che diamo i ghiaccioli così, no, scarti, una delle gelaterie migliori di Bologna, esatto, lo possiamo dire. E quindi adesso andrò a provarlo perché non l'hanno ancora assaggiato io mai. Devo andare adesso. No, il gelatauro tra l'altro è del quartiere, è troppo pubblicità. La prossima volta gli chiediamo di pagare. Però tu pensa che io ho avuto due ospiti da Shanghai che lo conoscevano e mi hanno chiesto di portarmi al gelatauro. Esatto. Niente, dobbiamo fare un altro evento. Una trasmissione sul gelatauro. Una puntata sul gelatauro. Un altro evento di regala l'arte, perché io possa venire a conoscere. Certo, infatti ti invitiamo assolutamente. E poi è una cosa anche che ha avuto un grande successo soprattutto con gli stranieri, perché io mi aspettavo, dico, domenica, no? Lì davanti, appunto, alla piazzetta, non ci sarà caldo, non ci sarà nessuno. Tantissima gente, ma soprattutto anche stranieri, e che sono rimasti entusiasti di questa idea, che potevano prendere i libri gratis, no? Che gli venivano regalati, e li hanno presi anche se erano in italiano, che mi chiedevo, ma come in italiano? No, li hanno presi lo stesso. Cataloghi. E poi cataloghi. Sì. Ah no, perché poi siamo stati anche aiutati da altri libri che ci sono arrivati dalla Pinacoteca, che quando ha saputo che facevamo questa cosa ci ha regalato altri volumi, cataloghi d'arte, c'erano, cioè, anche dei libri molto belli. E poi la cosa che era veramente, come dire, no, la chicca, che era che poi nei libri c'erano degli studenti che disegnavano nel frontespizio dei libri, chi voleva chiaramente, certo, e quindi lasciavano questa traccia di questo evento, e devo dire che hanno fatto dei disegni bellissimi. Quindi gli stranieri erano musica, libri, gelati, certo, e poi disegni sui libri. È stato veramente, no? Sì, ho la testimonianza anche di diverse persone che abitano in zona, a proposito della musica acustica, che è stata in realtà molto apprezzata, perché è stata percepita come una sonorità molto gradevole ma non invasiva rispetto alla loro vita, al modo che hanno di vivere lo spazio. Quindi molte persone in realtà residenti proprio di via Belle Arti, via Belmeloro, le zone limitrofe, si sono poi affacciate, incuriosite, hanno partecipato. Menzione d'onore alle nostre studentesse, ai nostri studenti, che veramente hanno partecipato in maniera generosissima e molto entusiastica. Siamo anche andati a fare volantinaggio nella via, anche a diffondere semplicemente gli eventi, portando i volantini che vedete, che abbiamo portato anche a voi, e abbiamo le risposte proprio di anche gli esercizi commerciali della via, le persone che vivono lì, tutti molto solidali e concordi con questa attività, che ha riparato, questo lo dico se posso prendere un minuto, credo anche come dire, il modo di relazionarsi delle studentesse e degli studenti, perché comunque non dimentichiamoci che veniamo da un periodo molto duro, due anni di chiusura in qualche modo, e quindi per me almeno è stato particolarmente emozionante poter ritrovare, oltre ovviamente i residenti, le persone che passavano di lì, però anche le ragazze e i ragazzi che tornavano a godersi uno spazio di relazioni che poi è la vitalità anche dell'Accademia stessa. Certo. Scusate, ho occupato un po' di tempo, ma sembrava una sfumatura importante. Sì. L'angolo della menzione. Adesso invece, parliamo degli eventi che appartengono a voi. Tipo stasera dalle 21.30 alle 23.30 al Cinema Galliera, come dicevamo prima, in via Giacomo Matteotti ci saranno proiettati i migliori cortometraggi realizzati dalle studentesse e degli studenti del triennio dei linguaggi del cinema e dell'audiovisivo e curati da Maurizio Finotto, che salutiamo. Questo è in via Giacomo Matteotti 27 ed è naturalmente gratuito. Poi invece giovedì c'è una cosa che non riguarda a Babbo, ma... Giovedì 30 giugno dalle 10 alle 17 Do Androids Dream of Electric Sheep. Sai che pensavo che fosse tipo dodecaedro, cioè quando l'ho letto sarà il fumo del caldo. Do Androids Dream of Electric Sheep. Esatto. Se gli androidi sognano le pecore elettriche. Capito. Comunque dai, era un titolo abbastanza challenging, è il titolo di un libro famoso, come si chiama? Non mi ricordo l'autore, è uno di questi di sci-fi. Ecco, io sono assolutamente negatissima su tutto questo sci-fi. Comunque presso Santa Cristina intervengono adiacenze Francesco Spampinato, Filippo Lorenzin, Anna Allegri, Francesco Rizzi, Gregorio Burgio, Alessandro Sambini, Sara Bonaventura, con il patrocinio del Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna. Ed è una giornata di studio praticamente dalle 10 alle 17, si chiama Tecnocopia. Naturalmente sul sito di Adiacenze troverete tutti i dettagli su tutto quanto. Poi invece abbiamo venerdì 1 luglio, come dicevamo, In and Out, prova di stampa in piazzetto Roberto Raviola, che sarebbe poi Magnus, che fra l'altro ha fatto l'Accademia anche lui. Esatto. Infatti, sì. Quello che disegnava il gruppo TNT. E abbiamo appunto il laboratorio ispirato ad alcuni tra i più importanti capolavori fioriti del museo. Ogni partecipante potrà ideare una composizione a tema floreale e sperimentare alcune fasi del processo di stampa per creare la propria opera originale da portare a casa con sé. Dopodiché ci sono le visite in Pinacoteca alle 16 e alle 17.30 e poi per famiglie e bambini dai 6 anni in su, e poi bisogna prenotarsi, giusto? A servizi educativi @ababo.it. Il laboratorio di stampa è a cura della professoressa Eugenia Nicolaeva Cristova, in collaborazione con le studentesse e gli studenti del corso di grafica d'arte dell'Accademia, e naturalmente tutto quanto è a cura tua, Ilaria Del Gaudio. In parte coordino. E poi domenica 3 luglio vai tu. Continuiamo con In and Out dalle 16 alle 20, paesaggio in palmo di naso alla Pinacoteca Nazionale di Bologna e piazzetta Roberto Raviola. Un laboratorio sempre a cura di una docente che oggi continua a venire fuori il nome, Ilaria Del Gaudio, e in collaborazione con le studentesse e gli studenti del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte. La prenotazione è obbligatoria, sempre a servizi educativi @ababo.it, e questa volta, come accennavano un po' prima, è un lavoro in collaborazione con la Pinacoteca. È un laboratorio di pittura di paesaggi in miniatura e l'illustratore Alessandro Sanna, ispirato ad alcune opere della sezione medievale del museo. Ogni partecipante potrà utilizzare la tecnica dell'acquerello e racchiudere le proprie suggestioni in un piccolo e prezioso paesaggio. Le visite sono dalle 16 alle 16 e alle 17.30 per famiglie e bambini da 6 anni in su. Olè. E naturalmente trovate tutto sempre su coxospaziale.blogspot.com. da domani trovate tutti i link, per cui non vi potrete perdere. Mentre invece domenica 3 luglio, che è una cosa che io di solito gli appuntamenti musicali non li menzioniamo, ma questo mi piaceva moltissimo perché si chiama Brahms e gli altri, la stagione 2022 di Concordanze del Goethe Zentrum di Bologna, Il concerto dell'ensemble Concordanze si chiama Johannes in miniatura ed è una prima assoluta, ovvero la grande quarta sinfonia in versione tascabile. La quarta sinfonia in mi minore opus 98 del 1885 nella trascrizione originale a cura di Concordanze per flauto, clarinetto, corno, fisarmonica e quintetto d'archi, scusate. L'ingresso libero come al solito e potete prenotarvi a concordanze@gmail.com e questo è all'Istituto di Cultura Germanica in via De Marchi numero 4 ed è domenica 3 luglio alle 21. Dopodiché possiamo continuare a parlare con i nostri ospiti. Abbiamo una cosa importantissima da dire che mi sto continuando a mettere in testa, che ci dobbiamo ricordare, che è il premio. Il premio. Sì. Diciamo qualcosa sul premio. Certo. Sì, no, infatti mi volevo collegare a quello che avevi quando hai finito di parlare di Open Tour, no, che dicevi questa cosa proprio di una, come dire, che Open Tour è anche una formazione della collettiva, no? Di tutta, certo, la città, della comunità. E su questo posso fare quindi complimenti in diretta, non soltanto alle qui presenti rappresentanti di questo grande progetto di team, ma anche complimenti ad iniziative come queste che vedono veramente ogni istituzione, ogni studente, ogni organo della città e ogni abitante collaborare per un progetto che vuole rimanere e costruire. Questa è una cosa cui io mi prendo questo spazio per dire bellissima, perché molto spesso magari invece gli eventi delle città, io vengo da Venezia per cui la Biennale è veramente il nostro amore e odio. E, come odio? Siete poi, matti? No, perché poi non c'è più niente, no? Sono un po' quegli eventi che poi rimangono così. Allora invece questo tipo di evento parla agli abitanti, con gli abitanti, e ci fa sentire tutti quanti abitanti, non più soltanto studenti o laboratori. E su questo complimenti lascio la parola. Mi collego ai tuoi ringraziamenti voglio fare i ringraziamenti proprio a tutti coloro che hanno fatto in modo e hanno contribuito alla realizzazione di Open Tour, proprio veramente a questa comunità artistica e non solo. E comunque questo per dire anche quali sono gli altri protagonisti di Open Tour, per esempio la Fondazione Zucchelli, no? Che da sempre collabora e anzi, come dire, indica strade, strategie, no? Sia per gli studenti dell'Accademia di Belle Arti sia per il Conservatorio di Bologna. E in questo caso proprio la Fondazione Zucchelli 4 anni fa ha ideato per Open Tour il premio Art Up, proprio la sua presidente, certo, Rita Finzi, che è un premio, chiaramente il premio della critica e il premio dei collezionisti. E quindi c'è ogni anno viene organizzata e chiamata una commissione, quindi una giuria, che quest'anno era formata da il presidente era Lorenzo Balbi, esatto, poi Marta Papini, che esatto, è curatrice super, sì, insieme a Cecilia Alemanni della Biennale di Venezia. E poi c'era Marina Senin, okay, che ha sostituito Giovanna Pesci un po' all'ultimo momento, però è stata veramente molto entusiasta di questo ruolo. E quindi cosa succede? Che questa commissione, questa giuria va in giro per tutte le, appunto, gallerie e gli spazi espositivi per scegliere. Quindi quest'anno c'è stata una sorpresa, i premi erano 2, quest'anno sono diventati 3. Fantastico. Sì, fantastico. I premi, tra l'altro, dobbiamo anche ringraziare per i premi, perché per il premio della critica dobbiamo ringraziare la Banca di Bologna, che ha appunto, il premio consiste in 2000 euro che però servono per l'acquisto dell'opera, certo, quindi l'opera poi diventa e fa parte della collezione della banca, così come un altro premio di 2000 euro invece per il premio dei collezionisti è invece come dire dato dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Okay. E quindi questi due, c'erano due premi, poi quest'anno abbiamo aggiunto anche un terzo premio, un premio della grafica, del disegno e dell'illustrazione, minore di 500 euro, che però ecco è stato salirà gli anni questo. Prossimi, dai. Ecco. No, ma comunque, anche perché, come via, dire, insomma, la grafica l'avevamo sempre offerto, sempre dalla Fondazione Cassa di Risparmio. E sono, quindi anche questa cosa è un po', no, come dire, è vero, i premi erano tutti, la qualità era altissima, certo, da parte di tutti, e devo dire che la quantità non ha oscurato la qualità, che è rimasta sempre alta, quindi ha aumentato però la qualità, però nella vita poi c'è chi viene premiato, ed certo, è giusto, no? No, questo infatti, principio comunque anche di meritocrazia, no? Aiuta tanto la crescita, la crescita, cioè il capire come, certo, funziona il mondo dell'arte, no? Cioè l'essere scelto o il non essere scelto, eccetera eccetera. Capire è lo che stesso, non è un gioco, appunto, cioè non prenderla come un gioco col voto finale, per dire, però con come le competizioni che ci sono. Sì, perché poi anche, no, finita la come dire, il periodo di formazione, poi una delle prime cose che si fanno sono proprio i premi, no? Certo. Infatti i premi, le residenze, eccetera. Questo naturalmente racconta anche un po' quanta offerta ci sia nel mondo dell'arte, quanta poca domanda in realtà ci sia nel mercato dell'arte, però chi si impegna e va avanti e viene poi premiato, no? Cioè certo, la ricerca e la caparbia nel mondo dell'arte vengono premiati, insomma. Speriamo, dai. Non smettete, anche se non vincete. Comunque sono state premiate tre donne. Oh, ah, devo dirlo. Quindi questa è in linea con la biennale. In linea con questa parte della stanza. Ma guarda, con me sfondi una porta aperta, perché io sono sempre dietro a lamentarmi del fatto che appunto la percentuale di studentesse, adesso non so come sia a Bologna, ma a Torino stiamo parlando di 9 a 1 il rapporto, per cui su una classe di 100 persone 90 sono studentesse e 10 sono maschi. Caspita, davvero? E quando ci sono le collettive spessissimo 5 maschi e 5 femmine. Sta cosa qua a me per esempio non è mai piaciuta tanto, infatti quando mi hanno invitato da professore a curare, certo, la Biennale di Monza, io ho portato 6 studentesse. Certo. Peccato che però invece c'è una percentuale di artisti molto più alta di quella delle artiste, lavoratori anche. Il mondo dell'arte, soprattutto quello italiano, riflette la società italiana, e dunque il maschilismo imperante che abbiamo continua anche nel mondo dell'arte, come sappiamo. Io inviterei tutti quelli che non sono stati premiati di comunque rimanere a Bologna, non scappare dall'Italia e cambiare le cose insieme, nel panorama artistico italiano. No? Intera su questo, non vedo, la farò l'11 luglio, così potrò dire tutto quello che voglio. Non perché, figurati, la faremo insieme, però stavo pensando, esatto, così è proprio super. Perché come Cristina ben ricorda, io sono stato uno dei primi 12 ad andarmene in Erasmus quando Adriano Baciglieri ha istituito il progetto Erasmus anche per le accademie nel 1990. Sì, eri sparito, poi non sapevamo più dove eri. infatti, dopo non tornavo. Non tornerai più. E invece ti rivedremo a Bologna. Molto bene, abbiamo finito, è finito il tempo, per cui vi dobbiamo salutare. C'è qualche ringraziamento che abbiamo dimenticato, la classica cosa, c'è qualche nome, appuntamento, saluto, niente. No, abbiamo detto tutto. Abbiamo ringraziato tutti. Non abbiamo ringraziato Enrico Fornaroli per aver cominciato. Ah, giusto, è vero. Invece questo è importante, perché nel 2015 fu proprio Enrico Fornaroli, infatti, a ideare questo format. Questo format che è stato, secondo me, un vero colpo di genio, devo dire. Sì, sì. Wow. Infatti, anzi, io che appunto, vivendo qua e insegnando a Torino, ho tentato di fare che l'Accademia di Torino facesse la stessa cosa, ma ci hanno un po' provato, ma non ci sono riusciti, perché comunque convincere, è una cosa complessa, convincere le gallerie commerciali a ospitare artisti sconosciuti anche solo per poco tempo comunque non è una passeggiata, insomma, perché le gallerie commerciali devono comunque fanno le loro mostre per vendere, soprattutto, per cui insomma non è non è semplicissimo. Però non sapevo che l'avesse iniziata Enrico Fornarò nel 2015. Sì. È un'iniziativa. Per questo, perché non hai ascoltato le ultime 408 puntate di Cox Spaziale che trovi sul nostro. Indietro. È vero, è vero, è vero. Scherzo, però chi lo sa, magari le altre accademie. Magari le altre accademie d'Italia o del mondo copieranno un po' questa iniziativa. Certo. Ma forse vorrei anche qualcosa di più. Magari chissà che non siamo noi a Bologna a invitarli. Ah, certo. Ah, ecco. Infatti. Sì, sì. Assolutamente. In futuro. Sì, perché no? Perché no? Farne un'operazione un po' più a livello nazionale, di giovani talenti italiani. Sì, no, di lavoro ce n'è tantissimo da fare per promuovere l'arte contemporanea italiana. Su questo non c'è dubbio. Ringraziamo Ilaria Del Gaudio e Cristina Francucci tantissimo per essere venute qui a raccontarci tutto, e naturalmente vi aspettiamo di nuovo a ottobre, quando riparte tutto quanto. Certo. Sì, a parlarci ancora di un appuntamento che porterete quest'inverno. Sì, i prossimi appuntamenti di riparazioni. Certo. Abbiamo appena iniziato, ce ne saranno tanti. Ci saranno tantissime riparazioni. Molto bene, noi come al solito noi ci vediamo, ci saremo lunedì prossimo, per cui Radio Peng, non vi preoccupate, avrete la vostra registrazione. E la musica di sottofondo è saltata. No, sembrava una cosa fatta apposta, invece è il CD player che si è incagliato. Ma noi, come al solito, vi lasciamo con le parole del nostro fantastico direttore, che finalmente incontriamo dal vivo dopo tanto tempo, giovedì prossimo alla cena di Radio Città Fujiko, che come al solito ci dice così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Che fa l'altro un gran pezzo. Kate Moss che canta. Wow. Ah no. Questa era Coxo Spaziale e come al solito ci risentiamo lunedì prossimo dalle 19 alle 20. No, I don't care for your metal looks. I don't care for your peeps and bloops. Go away, why don't you just shut up? Your crazy smile, digital dye. I hate your every bolt and screw. I don't like anything about you. You're a dirty robot. You're a dirty robot. You're a dirty robot. You're a dirty robot. Thank you.